ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ferrer mise un gran respiro quando vide quella piazzetta libera e la porta ancor chiusa. Chiusa qui vuol dire non aperta. Del resto i gangheri erano quasi sconficcati fuori dei pilastri, i battenti scheggiati, ammaccati, sforzati e scombaciati nel mezzo, lasciavano veder fuori da un largo spiraglio un pezzo di catenaccio storto, allentato e quasi divelto che, se vogliamo dir così, li teneva insieme. Un galantuomo s'era affacciato a quel fesso a gridar che aprissero. Un altro spalancò in fretta lo sportello della carrozza. Il vecchio mise fuori la testa, s'alzò e, afferrando con la destra il braccio di quel galantuomo, uscì e scese sul predellino. La folla, da una parte e dall'altra, stava tutta in punta di piedi per vedere mille visi, mille barbe in aria. La curiosità e l'attenzione generale creò un momento di generale silenzio. Ferrer, fermatosi quel momento sul predellino, diede un'occhiata in giro, salutò con un inchino la moltitudine come da un pulpito e, messa la mano sinistra al petto, gridò «Pane e giustizia!» e franco, diritto, togato, scese in terra tra le acclamazioni che andavano alle stelle. Intanto quelli di dentro avevano aperto, ossia avevano finito d'aprire tirando via il catenaccio insieme con gli anelli già mezzi sconficcati e allargando lo spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite. «Presto, presto», diceva lui, «aprite bene che io possa entrare e voi da bravi tenete indietro la gente, non mi lasciate venire addosso, per l'amor del cielo, serbate un po' di largo, per tra poco, ehi, signori, un momento!» diceva poi ancora a quelli di dentro. «Adagio con quel battente!» «Lasciatemi passare, le mie costole, vi raccomando le mie costole, chiudete ora, no, la toga!» Sarebbe infatti rimasta presa tra i battenti se Ferrer non avesse ritirato con molta disinvoltura lo strascico che disparve come la coda d'una serpe che si rimbuca inseguita. Riaccostati i battenti, furono anche riappuntellati alla meglio. Di fuori, quelli che si erano costituiti guardia del corpo di Ferrer lavoravano di spalle, di braccia e di grida a mantenere la piazza vuota, pregando in cuor loro il Signore che lo facesse far presto. «Presto, presto», diceva anche Ferrer di dentro, sotto il portico, ai servitori che gli si erano messi intorno ansanti, gridando «Sia benedetto! Ah, eccellenza! Oh, eccellenza! Oh, eccellenza!» «Presto, presto», ripeteva Ferrer, «dov'è questo benedetto uomo?» Il vicario scendeva le scale mezzo strascicato e mezzo portato da altri suoi servitori, bianco come un panno lavato. Quando vide il suo aiuto, mise un gran respiro. Gli tornò il polso, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore sulle gote e corse come poté verso Ferrer dicendo «Sono nelle mani di Dio, di vostra eccellenza, ma come uscir di qui? Per tutto c'è gente che mi vuol morto!» «Venga usted conmigo!» «E si faccia coraggio! Qui fuori c'è la mia carrozza! Presto, presto!» Lo prese per la mano e lo condusse verso la porta facendogli coraggio, tuttavia. Ma diceva intanto tra sé «A chi está el busilis? Dios nos valga!» La porta s'apre. Ferrer esce il primo, l'altro dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatrice come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che avevano mantenuto la piazza vuota fanno ora, con un alzar di mani, di cappelli, come una rete, una nuvola, per sottrarre alla vista pericolosa della moltitudine il vicario, il quale entra il primo nella carrozza e vi si rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo, lo sportello viene chiuso, la moltitudine vide in confuso, riseppe, indovinò quel che era accaduto e mandò un urlo d'applausi e d'imprecazioni. La parte della strada che rimaneva da farsi poteva parer la più difficile e la più pericolosa, ma il voto pubblico era abbastanza spiegato per lasciare andare in prigione il vicario. E nel tempo della fermata molti di quelli che avevano agevolato l'arrivo di Ferrer si erano tanto ingegnati a preparare e a mantenere come una corsia nel mezzo della folla che la carrozza poté, questa seconda volta, andare un po' più lesta e di seguito. Di mano in mano che s'avanzava, le due folle rattenute dalle parti si ricadevano addosso e si rimischiavano dietro a quella. Ferrer, appena seduto, si era chinato per avvertire il vicario che stesse ben rincantucciato nel fondo e non si facesse vedere per l'amor del cielo, ma l'avvertimento era superfluo. Lui, invece, bisognava che si facesse vedere per occupare e attirare a sé tutta l'attenzione del pubblico. E per tutta questa gita, come nella prima, fece al mutabile uditorio un discorso il più continuo nel tempo, il più sconnesso nel senso che fosse mai, interrompendolo però ogni tanto con qualche parolina spagnola che in fretta si voltava a bisbigliar nell'orecchio del suo acquattato compagno. «Sì, signori, pane e giustizia, in castello, in prigione, sotto la mia guardia!» «Grazie, grazie, grazie tante! No, no, non scapperà!» «Por ablandarlos!» «È troppo giusto, si esaminerà, si vedrà! Anch'io voglio bene a lor signori! Un castigo severo!» «Esto lo digo por su bien!» «Una meta giusta, una meta onesta e castigo agli affamatori! Si tirin da parte! Di grazia!» «Sì, sì, io sono un galantuomo, amico del popolo. Sarà gastigato, è vero, è un birbante, uno scellerato.» «Perdone usted.» «La passerà male, la passerà male.» «Si è sculpable.» «Sì, sì, li faremo rigar dritto i fornai. Viva il re e i buoni milanesi, suoi fedelissimi vassalli. Sta fresco, sta fresco.» «Animo, estamos ya quasi fuera.» Avevano infatti attraversata la maggior calca e già eran vicini a uscire al largo del tutto. Lì Ferrer, mentre cominciava a dare un po' di riposo ai suoi polmoni, vide il soccorso di Pisa, quei soldati spagnoli che però sulla fine non erano stati affatto inutili, giacché sostenuti e diretti da qualche cittadino avevano cooperato a mandare in pace un po' di gente e a tenere il passo libero all'ultima uscita. All'arrivare della carrozza fecero ala e presentarono l'arme al gran cancelliere, il quale fece anche qui un saluto a destra e un saluto a sinistra. E all'ufficiale che venne più vicino a fargli il suo, disse, accompagnando le parole con un cenno della destra, «Beso a usted las manos». Parole che l'ufficiale intese per quel che volevano dire realmente, cioè «Ma avete dato un bel aiuto». In risposta fece un altro saluto e si ristrinse nelle spalle. «Levántese, levántese, estamos ya fuera», disse Ferrer al vicario, il quale, rassicurato dal cessar delle grida e dal rapido moto della carrozza e da quelle parole, si volse, si sgruppò, s'alzò e, riavutosi alquanto, cominciò a render grazie, grazie e grazie al suo liberatore. Questo, dopo essersi condoluto con lui del pericolo e rallegrato della salvezza, «Ah!» esclamò battendo la mano sulla sua zucca monda. «Che dirà adesso, Sua Eccellenza? Che ha già tanto la luna a rovescio per quel maledetto casale che non vuole arrendersi? Che dirà il conde, dunque? Che piglia ombra se una foglia fa più rumore del solito? Che dirà il re, nostro signor? Che pur qualche cosa bisognerà che venga a risapere d'un fracasso così, e sarà poi finito? Dios lo sabe. Ah, per me non voglio più impicciarmene», diceva il vicario. «Me ne chiamo fuori, rassegno la mia carica nelle mani di Vostra Eccellenza e vo a vivere in una grotta, su una montagna, a far l'eremita lontano, lontano da questa gente bestiale.» «Usted farà quello che sarà più conveniente per il servizio de su maestad», rispose gravemente il gran cancelliere. «Sua maestà non vorrà la mia morte», replicava il vicario, in una grotta, lontano da costoro. Che avvenisse poi di questo suo proponimento non lo dice il nostro autore, il quale, dopo aver accompagnato il pover uomo in castello, non fa più menzione dei fatti suoi. La folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra per questa e per quella strada. Chi andava a casa a cudire anche alle sue faccende, chi si allontanava per respirare un po' a largo dopo tante ore di stretta, chi in cerca d'amici per ciarlare dei gran fatti della giornata. Lo stesso sgombero si andava facendo dall'altro sbocco della strada, nella quale la gente restò abbastanza rada perché quel drappello di spagnoli potesse, senza trovare resistenza, avanzarsi e postarsi alla casa del vicario. Accosto a quella stava ancor condensato il fondaccio, per così dir, del tumulto, un branco di birboni che, malcontenti d'una fine così fredda e così imperfetta, d'un così gran apparato, parte brontolavano, parte bestemmiavano, parte tenevano consiglio per vedere se qualche cosa si potesse ancora intraprendere. E come per provare, andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta che era stata di nuovo appuntellata alla meglio. All'arrivare del drappello, tutti coloro, chi diritto, diritto, chi baloccandosi e come a stento, se ne andarono dalla parte opposta, lasciando il campo libero a soldati che lo presero e vi si postarono a guardia della casa e della strada. Ma tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi. Dove c'erano due o tre persone ferme, se ne fermavano tre, quattro, venti altre. Qui qualcheduno si staccava, là tutto un crocchio si muoveva insieme. Era come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira per l'azzurro del cielo dopo una burrasca. E fa dire a chi guarda in su: questo tempo non si è rimesso bene. Pensate poi che Babilonia dei discorsi. Chi raccontava con enfasi i casi particolari che aveva visti, chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto, chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene e lodava Ferrer e pronosticava guai seri per il vicario, chi sghignazzando diceva: non abbiate paura che non l'ammazzeranno, il lupo non mangia la carne del lupo, chi più stizzosamente mormorava che non si era fatte le cose a dovere, che era un inganno e che era stata una pazzia il far tanto chiasso per lasciarsi poi canzonare in quella maniera. Intanto il sole era andato sotto, le cose diventavano tutte d'un colore e molti, stanchi della giornata e annoiati di ciarlare al buio, tornavano verso casa. Il nostro giovine, dopo aver aiutato il passaggio della carrozza, finché c'era stato bisogno d'aiuto ed esser passato anche lui dietro a quella tra le file dei soldati, come in trionfo, si rallegrò quando la vide correre liberamente e fuor di pericolo. Fece un po' di strada con la folla e ne uscì alla prima cantonata per respirare anche lui un po' liberamente. Fatto che ebbe pochi passi al largo, in mezzo all'agitazione di tanti sentimenti, di tante immagini recenti e confuse, Renzo sentì un gran bisogno di mangiare e di riposarsi e cominciò a guardare in su da una parte e dall'altra cercando un'insegna d'osteria, giacché per andare al convento dei Cappuccini era troppo tardi. Camminando così con la testa per aria, si trovò a ridosso d'un crocchio e, fermatosi, sentì che vi discorrevano di congetture, di disegni per il giorno dopo. Stato un momento a sentire, non poté tenersi di non dire anche lui la sua, parendogli che potesse senza presunzione proporre qualche cosa chi aveva fatto tanto, e persuaso, per tutto ciò che aveva visto in quel giorno, che ormai per mandare a effetto una cosa bastasse farla entrare in grazia a quelli che giravano per le strade. «Signori miei!» gridò in tono d'esordio. Devo dire anch'io il mio debol parere? Il mio debol parere è questo: che non è solamente nell'affare del pane che si fanno delle bricconerie, E già che oggi si è visto chiaro che a farsi sentire sottiene quel che è giusto, bisogna andare avanti così, finché non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze e che il mondo vada un po' più da cristiani. Non è vero, signori miei? Che c'è una mano di tiranni che fanno proprio al rovescio dei 10 comandamenti e che vanno a cercare la gente quieta che non pensa loro per farle ogni male e poi hanno sempre ragione? Anzi, quando l'hanno fatta una più grossa del solito, camminano con la testa più alta, che par che gli si abbia rifare il resto. Già anche in Milano ce ne deve essere la sua parte. Purtroppo, disse una voce. Lo dicevo io, riprese Renzo. Già le storie si raccontano anche da noi. E poi la cosa parla da sé. Mettiamo, per esempio, che qualcuno di costoro, che voglio dire io, stia un po' in campagna, un po' in Milano. Se è un diavolo là, non vorrà essere un angelo qui, mi pare. Dunque, mi dicano un poco, signori miei, se hanno mai visto uno di questi col muso all'inferriata. E quel che è peggio, e questo lo posso dire io di sicuro, è che le gride ci sono, stampate per castigarli. E non già gride senza costrutto, fate benissimo, che noi non potremmo trovare niente di meglio. Ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono, e a ciascheduna il suo buon castigo. E dice, sia chi si sia, vili e plebei e che so io. Ora, andate a dire ai dottori, scribi e farisei che vi facciano far giustizia secondo che canta la grida. Vi danno retta come il Papa ai furfanti. Cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo. Si vede dunque chiaramente che il re e quelli che comandano vorrebbero che i birboni fossero castigati, ma non se ne fa nulla perché c'è una lega. Dunque bisogna romperla. Bisogna andare domattina da Ferrer, che quello è un galantuomo, un signore alla mano, e oggi si è potuto vedere com'era contento di trovarsi con la povera gente e come cercava di sentire le ragioni che gli venivano dette e rispondeva con buona grazia. Bisogna andare da Ferrer e dirgli come stanno le cose, e io per la parte mia gliene posso raccontare delle belle che ho visto io, sì, coi miei occhi. Una grida con tanto d'arme in cima, ed era stata fatta da 3 di quelli che possono, che d'ognuno c'era sotto il suo nome belle stampato, e uno di questi nomi era Ferrer, visto da me, coi miei occhi. Ora, questa grida diceva proprio le cose giuste per me, e un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse rendere giustizia com'era l'intenzione di quei 3 signori, tra i quali c'era anche Ferrer, questo signor dottore che mi aveva fatto vedere la grida lui medesimo, che è il più bello. Pareva che gli dicessi delle pazzie. Son sicuro che quando quel caro vecchione sentirà queste belle cose, che lui non le può saper tutte, specialmente quelle di fuori, non vorrà più che il mondo vada così e ci metterà un buon rimedio. E poi anche loro, se fanno le gride, devono aver piacere che s'ubbidisca, che è anche un disprezzo un pitafio col loro nome contarlo per nulla. E se i prepotenti non vogliono abbassare la testa e fanno il pazzo, siamo qui noi per aiutarlo, come si è fatto oggi. Non dico che deve andare lui in giro in carrozza a chiappar tutti i birboni prepotenti e tiranni, sì, ci vorrebbe l'arca di Noè. Bisogna che lui comandi a chi tocca, e non solamente in Milano, ma per tutto, che facciano le cose conforme dicon le gride, e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di queste bricconerie. E dove dice prigione, prigione, e dove dice galera, galera, e dire ai podestà che facciano davvero, se no mandarli a spasso e metterne de meglio. E poi, come dico, ci saremo anche noi a dare una mano e ordinare a dottori che stiano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione. Dico bene, signori miei? Renzo aveva parlato tanto di cuore che fin dall'esordio una gran parte dei radunati, sospeso ogni altro discorso, si erano rivoltati a lui e a un certo punto tutti erano divenuti suoi uditori. Un grido confuso d'applausi di «Bravo! sicuro! Ha ragione! È vero, purtroppo! Fu come la risposta dell'udienza. Non mancarono però i critici. Eh sì, diceva uno, da Retta ai Montanari sono tutti avvocati. E se ne andava. Ora, mormorava un altro, ogni scalzacane vorrà dir la sua e a furia di metter carne al fuoco non saprà il pane a buon mercato che è quello per cui ci siamo mossi. Renzo però non sentì che i complimenti. Chi gli prendeva una mano, chi gli prendeva l'altra. Arrivederci, a domani, dove? Sulla piazza del Duomo. Va bene, e qualcosa si farà, e qualcosa si farà. Chi è di questi bravi signori che voglia insegnarmi un'osteria per mangiare un boccone e dormire da povero figliuolo? Disse Renzo. Son qui io a servirvi, quel bravo giovine, disse uno che aveva ascoltato attentamente la predica e non aveva detto ancora nulla. Conosco appunto un'osteria che farà il caso vostro e vi raccomanderò al padrone che è un mio amico, un galantuomo. Qui vicino? Domandò Renzo. Un poco distante, rispose colui. La radunata si sciolse e Renzo, dopo molte strette di mani sconosciute, s'avviò con lo sconosciuto ringraziandolo della sua cortesia. Di che cosa? Diceva colui. Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Non siamo obbligati a far servizio al prossimo? E camminando faceva Renzo, in aria di discorso, ora una, ora un'altra domanda. Non per sapere i fatti vostri, ma voi mi parete molto stracco. Da che paese venite? Vengo, rispose Renzo, fino da Lecco. Fin da Lecco. Di Lecco siete. Di Lecco, cioè del territorio. Povero giovine. Per quanto ho potuto intendere dai vostri discorsi, ve ne hanno fatte delle grosse. Caro il mio galantuomo, ho dovuto parlare con un po' di politica per non dire in pubblico i fatti miei, ma basta. Qualche giorno si saprà. E allora? Ma qui vedo un'insegna d'osteria e in fede mia non ho voglia di andare più lontano. No, venite dove ho detto io, che c'è poco, disse la guida. Qui non gli stareste bene. Sì, rispose il giovane. Non sono un signorino avvezzo a star nel cotone. Qualcosa alla buona da mettere in castello e un saccone mi basta. Quel che mi preme è di trovar presto l'uno e l'altro. Alla provvidenza. Ed entrò in un usciaccio sopra il quale pendeva l'insegna della luna piena. Bene, vi condurrò qui, già che vi piace così, disse lo sconosciuto e gli andò dietro. Non occorre che vi incomodiate di più, rispose Renzo, però, soggiunse, se venite a bere un bicchiere con me, mi fate piacere. Accetterò le vostre grazie, rispose colui, e andò, come più pratico del luogo, innanzi a Renzo per un cortiletto. S'accostò all'uscio che metteva in cucina, alzò il saliscendi, aprì e entrò col suo compagno. Due lumi a mano, pendenti da due pertiche attaccate alla trave del palco, vi spandevano una mezza luce. Molta gente era seduta, non però in ozio, su due panche di qua e di là ad una tavola stretta e lunga che teneva quasi tutta una parte della stanza. A intervalli tovaglie e piatti, a intervalli carte voltate e rivoltate, dadi buttati e raccolti, fiaschi e bicchieri per tutto. L'oste era a sedere su una piccola panca sotto la cappa del cammino, occupato in apparenza in certe figure che faceva e disfaceva nella cenere con le molle, ma in realtà intento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. S'alzò al rumore del saliscendi e andò incontro ai sopraarrivati. Vista che ebbe la guida, maledetto, disse tra sé, che tu m'abbia venir sempre tra piedi quando meno ti vorrei. Data poi un'occhiata in fretta a Renzo, disse ancora tra sé, non ti conosco, ma venendo con un tal cacciatore, o cane, o lepre, sarai. Quando avrai detto due parole ti conoscerò. Però di queste riflessioni nulla trasparve sulla faccia dell'oste, la quale stava immobile, come un ritratto. Una faccia pienotta e lucente, con una barbetta folta rossiccia e due occhietti chiari e fissi. «Cosa comandan questi signori?» disse ad alta voce. Prima di tutto un buon fiasco di vino sincero, disse Renzo, e poi un boccone. Così dicendo si buttò a sedere su una panca verso la cima della tavola e mandò un ah sonoro, come se volesse dire fa bene un po' di panca dopo essere stato tanto tempo ritto in faccende. Ma gli venne subito in mente quella panca e quella tavola a cui era stato seduto l'ultima volta con Lucia e con Agnese.